Biglia blu. Seduto dietro al bancone del mio bar, osservavo, con occhi stanchi, i volti dei clienti che entravano ed uscivano. La vita scorreva come il caffè che servivo ogni mattina, ma quella volta tutto cambiò. L'inflazione aveva avuto degli effetti disastrosi sulla mia attività, dunque fui costretto ad aumentare i prezzi dei prodotti. Ciò però rese i clienti insoddisfatti. Fu così che un giorno di febbraio, uno di loro, con occhi pieni di rabbia, si avvicinò al bancone. «Hai il coraggio di chiedere così tanto per un caffè?» gridò. Tentai di spiegare la mia situazione, ma la sua furia era incontenibile. In un attimo si scatenò l'inferno. Urla, bottiglie infrante, tavoli ribaltati. Il mio bar, una volta luogo di incontro e allegria, era ora distrutto. Senza soldi e con il cuore infranto, mi ritrovai senza scelta. La camorra mi offrì una mano e colsi l'occasione. Inizialmente mi furono assegnati piccoli incarichi. Fai questo, riscuoti quel credito. Ma la mia dipendenza cresceva più veloce dell'erba alta nelle strade di Napoli. Non potevo dire di no. Ma forse mi andava bene così. Dopo un'intera vita nella mediocrità, con mio padre che a stento arrivava a fine mese, la camorra mi stava dando la possibilità di dare ai miei figli tutto ciò che non ho mai ricevuto. Di certo all'inizio non era facile. Sentivo di star facendo qualcosa di sbagliato. Ma questa sensazione svanì quando compresi che in una notte potevo guadagnare più di quanto in un intero mese ricavavo dal mio bar. Ormai ero completamente accecato dalla mia stessa tracotanza e ben presto, senza che me ne accorgessi, mi ritrovai coinvolto inerme in affari sempre più loschi, cercando di mantenere la facciata del mio bar intatta, mentre la mia anima si sgretolava. La camorra, come un serpente velenoso, mi aveva stretto in una morsa. Non c'era più strada di ritorno. Poi, una notte, mi venne chiesto di fare qualcosa di inaccettabile. Distruggere il bar di un altro proprietario che aveva rifiutato di pagare il pizzo. Mi resi conto che stavo per diventare ciò che avevo temuto. Mentre mi avvicinavo al bar per svolgere il mio compito, vidi il riflesso del mio volto nei vetri rotti del mio vecchio bar. Quello sguardo era un grido di aiuto. Lo stesso che vidi negli occhi di mio padre, quando stanco, dopo l'ennesima giornata di lavoro, venne a prendermi in caserma perché avevo rubato un paio di scarpe che non potevamo permetterci. Le parole che mi disse quella notte, di un discorso che pensavo di aver totalmente dimenticato, mi apparivano ora chiarissime. «Jacopo», affermò, con occhi lucidi e al tempo stesso solenni, «devi promettermi una cosa. Per quanto il mondo potrà sembrarti scorretto, per quanto le persone meschine, avide ed egoiste, tu non dovrai mai diventare uno di loro, ma preservare quel poco di bene e agire secondo quel senso di giustizia che è innato in ognuno di noi. Solo così potrai goderti veramente questo meraviglioso dono che è la vita su questa grande biglia blu». Tutto ad un tratto mi accorsi che le lacrime mi stavano rigando le guance e che mio padre, Dio o chi per lui, voleva farmi capire che non era ancora troppo tardi per rimediare ai miei sbagli. La decisione fu difficile, ma quella notte mi ribellai. Rifiutai di distruggere il bar di un altro onesto lavoratore. In quel momento il mio destino prese una piega diversa. La camorra non perdonava tradimenti. Fui braccato, ma non potevo tornare indietro. Nel culmine della tensione, un vecchio amico di gioventù, ora un poliziotto, mi offrì una via d'uscita. In cambio della mia collaborazione contro la camorra, avrei ottenuto protezione. Accettai e iniziammo un'operazione per smantellare l'organizzazione criminale che aveva avvolto la mia vita. Il giorno dell'arresto finale, Napoli sembrava più luminosa. Io potei ricominciare la mia vita, altrove. I miei occhi erano rivolti verso il futuro. Ero pronto a lottare con onestà. Con un cuore più saggio, promisi a me stesso di non lasciare mai più che l'oscurità si insinuasse nella mia vita.